Abbiamo il piacere di avere qui con noi ai microfoni di Radio Città Fujiko Francesco Carlo, in arte Kento, uno dei rapper italiani più amati qui nel territorio bolognese. Ciao Francesco, benvenuto. Ciao, è un piacere tornare a questi microfoni e spero di trovarvi di persona prima o poi a Bologna. Oltre ad essere un rapper molto conosciuto, sei anche uno scrittore e un autore. Tutto ciò intrecciato con una vita politicamente impegnata. Infatti, il 28 aprile è uscito il tuo nuovo podcast, Illegale. Ti ho invitato perché sono curiosa di saperne un po' di più. Sì, Illegale è un podcast in uscita proprio in queste settimane. Siamo in corso di uscita e andremo, insomma, a uscire una puntata alla settimana fino a dopo l'estate. Sono 18 puntate, quindi insomma è un podcast molto lungo, molto corposo e mi sono divertito moltissimo a scriverlo. Parla della cultura antagonista in Italia, parla dei conflitti in Italia, racconta un'Italia un po' diversa magari di quella che ci viene raccontata di solito, racconta un'Italia nascosta, meno conosciuta, forse meno accessibile anche, ma non per questo meno interessante, merita di essere vista, di essere compresa, e che è un modo straordinario per leggere la realtà che viviamo. Infatti è un podcast, come ci hai accennato, che parla di luoghi specifici delle città, non prende la città a tutto tondo e vede come questi luoghi sono intrecciati con il rap, ma anche con le situazioni della cultura dal basso, della cultura underground. Sì, assolutamente sì. Sai, negli ultimi decenni io non riesco a vedere niente di bello a livello culturale, a livello sociale, che non sia nato dal basso, che non sia nato dalla strada, a livello di cultura, a livello di musica, a livello di cibo, perfino a livello di stile. Quindi è raro che ci sia qualcosa di veramente bello, interessante ed epocale che venga calato dall'alto. Tutto quello che c'è di bello, che è successo di bello ultimamente, viene dalla strada. Poi certo, magari in molti casi il mercato se l'è preso, l'ha fagocitato, l'ha cambiato, però la strada rimane il punto più interessante, forse più importante delle nostre città. Rimane il punto di nascita, il punto di arrivo di tante cose interessanti come quelle che ho raccontato in queste 18 puntate. Per chi ti conosce musicalmente si sente che è nato da un rapper che parla di cultura underground anche nella sua musica. Come ti è venuta l'idea di fare un podcast? Ma mi rendevo conto che, insomma, facendo la mia vita, girando, andare a fare concerti, andando a fare incontri, conoscevo dei luoghi e della realtà straordinari che molto spesso non erano abbastanza conosciuti, e dall'altro lato sarebbe stato molto difficile, insomma, per ovvie ragioni, portare delle telecamere, portare delle macchine da presa e raccontarle in video. Quindi qual è lo strumento migliore? Beh, essendo anch'io, insomma, un ascoltatore di podcast, mi sono reso conto subito che la modalità sarebbe stata questa. Quindi ho parlato con gli amici di Amons Record, con i quali, insomma, ci conoscevamo già da qualche anno, avevamo in mente di collaborare, ma non avevamo ancora trovato il progetto giusto. Io ho fatto questa proposta e subito è stata, insomma, accettata con molto entusiasmo e abbiamo cominciato questa bellissima avventura insieme. Le puntate che sono già uscite, 6, trattano di 3 luoghi di Roma e 3 luoghi di Torino. Ti chiedo un piccolo spoiler, parlerai di Bologna? Bologna per adesso dolorosamente l'abbiamo abbandonata, ma ci riserviamo di riprenderla, insomma, in futuro, se ce ne sarà occasione di riprendere Bologna, che sicuramente, per quanto riguarda la cultura antagonista e per quanto riguarda il rap, sicuramente è una delle capitali d'Italia. Ad essere sincero, a parte un paio di grandi città, ho preferito raccontare le città che magari sono meno conosciute, meno raccontate da questo punto di vista, come ad esempio Palermo, la mia Reggio Calabria. Quindi su Bologna sicuramente ci torneremo non appena ci sarà occasione. Speriamo vivamente in una seconda stagione, perché qui c'è tanto da raccontare. Intanto il podcast è stato anticipato dall'uscita di un videoclip e di un singolo che porta il nome omonimo, Illegale, però girato in Giappone. Come mai questa scelta? Guarda, volevo raccontare l'inconoscibilità delle città, il mistero delle città, quindi ho scelto di girare il videoclip in Giappone, appunto perché la barriera linguistica, ma anche la differenza proprio a livello di atmosfera, a livello di paesaggio, è molto forte, quindi volevo dare questo effetto estraniante alla rappresentazione visiva della canzone. Tu non ami molto le etichette, però sei comunque una persona che è sempre stata politicamente impegnata e ha portato anche il rap di militanza ad una categoria, insomma, un po' più conosciuta. Tu lavori anche nelle carceri, fai dei progetti nelle carceri minorili, e volevo chiederti, a proposito di questo, domanda così sparata: il rap è antifascista nel 2023? No, il rap non è antifascista nel 2023. Il mio rap è sicuramente antifascista, ma che il rap sia schierato in maniera antifascista nel 2023 sinceramente non lo posso dire, perché ci sono tanti, troppi artisti che non prendono posizione da questo punto di vista. Ci sarebbe da dire una cosa ancora più basica, che il rap è la musica dei neri, è la musica degli afroamericani, quindi quantomeno dovrebbe essere dichiaratamente antirazzista. Nemmeno posso dire questo, che sia dichiaratamente antirazzista. non perché ci siano dei rapper nazisti o fascisti che tirano fuori dei testi, dicono quelle stupidaggini e quelle cose assurde, ma perché purtroppo manca molto spesso, troppo spesso, la voglia di schierarsi e di dirle esplicitamente certe cose. E non essere razzista ovviamente non basta, bisogna essere antirazzisti così come bisogna essere antifascisti. Grazie mille Francesco per la bellissima chiacchierata, è stato un piacere averti ai nostri microfoni. Ti facciamo in bocca al lupo per il proseguimento del tuo podcast e speriamo di vederti presto live qui a Bologna. Grazie a voi, ci vediamo a Bologna.